Ecco, noi Lorenzo Loris, regista delle Cosmicomiche, la boutique del mistero, Calvino incontra Buzzati, in scena al Teatro Palladium a Roma dal 29 al 31 maggio. Lorenzo, benvenuto. Grazie, Ci presenti questo lavoro? conseguenza di uno, come dire, di un'indagine che sto facendo da diversi anni intorno alla letteratura del Novecento, ai grandi autori del Novecento, cercando di mettere in scena in teatro la loro lingua, che è lo strumento principale della loro comunicazione. Quindi non sono degli adattamenti, ma li propongo gli autori tali e quali. L'ho fatto in passato attraverso avvicinandomi a Testori, a Gadda, Pasolini, Moravia, Calvino, l'anno scorso infatti abbiamo messo in scena Gli amori difficili di Calvino, che sono dei racconti che hanno come tema appunto l'amore, e quest'anno lo spettacolo andò particolarmente bene. E decidemmo quindi di riprendere Calvino e di spostarci però sulle Cosmicomiche, ma volevamo alzare l'asticella, mettere in scena con Calvino un altro autore che in qualche modo potesse avere delle corrispondenze. Abbiamo scelto Buzzati. Questo è avvenuto come dire, a livello intuitivo. Però poi abbiamo scoperto che le corrispondenze di cui in genere si parla intorno a questi due autori, e cioè l'utilizzo del fantastico, l'ironia che loro usano nei loro racconti, la distruzione della dimensione del tempo, in realtà avevano un'altra ragione molto più forte e importante. E che è questa: ho trovato uno scritto di Calvino dell'80, Buzzati era ormai mancato da diversi anni, nel 72 c'erano 17 anni di differenza tra loro, si erano conosciuti in vita ma non frequentati. Si erano scambiati due lettere quando Calvino era responsabile della promozione dell'Einaudi, degli scrittori per l'Einaudi, mentre Buzzati lavorava per il Corriere della Sera. Dicevo, ho trovato questo scritto in cui Calvino sostiene che per tutta la sua attività letteraria giovanile il suo modello di riferimento era Buzzati. Ecco, e questo mi ha ulteriormente dato la spinta per portare in scena questi due autori. Ho scelto tra le 32 Cosmicomiche di Calvino due testi, due racconti, e tra i 50 racconti di Buzzati due testi. Li ho messi insieme e ho deciso di portare in scena i due autori. Infatti in scena ci saranno due attori, Pietro Bontempo e Paolo Bessegato, che interpretano la parte di Calvino e Buzzati, che a turno raccontano e interpretano le loro novelle. È la prima uscita questa o ha già delle date precedenti? No, siamo ancora in scena a Milano, finiamo domani, dopo 4 settimane al Teatro Autos, e siamo molto contenti di portare lo spettacolo a Roma, perché insomma, siamo contenti anche della risposta del pubblico. Sì. Volevo chiederti anche questi quattro racconti che hai scelto dei due autori, oltre alle note che dicevi di ironia e fantasia, in che relazione sono? Cosa esprimono? Alla fine, nella lunga selezione, come puoi immaginare, dai racconti, dalle cosmicomiche della boutique del mistero che è stata fatta, poi ho cercato di ho scelto La distanza della luna, La memoria del mondo di Calvino e Ragazza che precipita in viti superflui di Buzzati, che sono legati da un tema, un filo rosso che li unisce, la mancanza del femminile. Non a caso in scena ci sono solo due uomini, due autori. Ho capito. Senti, ci sono degli spazi internet per saperne di più su questi lavori in particolare e se più in generale sulla tua attività? Sì, sul sito del Teatro Autof, www.teatroautof.it, si può trovare tutto quello che come dire, può essere interessante, il materiale che può interessare rispetto allo spettacolo. Benissimo. Allora ricordiamo questo appuntamento a Roma al Teatro Palladium dal 29 al 31 maggio con Le Cosmicomiche, la boutique del mistero. Calvino incontra Buzzati per la regia di Lorenzo Loris. Lorenzo, un ringraziamento, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie davvero. Buona giornata, grazie.